il tetragramma nella Bibbia dei 70 Nuovo Testamento. La Bibbia dei 70 è la prima versione in greco dell'Antico Testamento. Fu redatta tra il III secolo a.C. e il II secolo a.C. per venire incontro alle esigenze di culto e di proselitismo dei giudei, residenti in Egitto e, più in generale, fuori della terra di Israele. Fu fortemente voluta soprattutto dagli ebrei della diaspora, che non comprendevano più l'ebraico, secondo la lettera di Aristeia, è detta dei 70, perché sarebbe stata eseguita da 70 saggi nell'isola di Faro, Alessandria, d'Egitto, su richiesta di Tolomeo II Filadelfo. La Bibbia dei 70 tradusse il tetragramma con Kyrios, Kyrios, Signore, in oltre 2000 manoscritti e papiri. Esistono però testimonianze di limitati casi di copie della versione dei 70, il grado secolo avanti Cristo, terzo grado secolo davanti Cristo, che hanno reso il nome di Dio in altro modo. Caratteri greci, lettere greche maiuscole Yao, caratteri aramaici, caratteri paleoebraici, due jod ebraiche ed un trattino in mezzo, caratteri ebraici quadrati. Al momento, fatta eccezione per le versioni greche di Aquila, Teodozione e Simmaco, che reintrodussero il tetragramma in chiara polemica col cristianità, non è però possibile dire se si tratti di manoscritti fedeli ad un testo originale scomparso, di versioni greche parallele, di traduzioni manipolate, di sporadiche correzioni ebraiche sul testo greco o di autorevoli revisioni della Settanta su un testo pre-masoretico, ormai irrimediabilmente perduto. Sulla storia del testo della LXX esistono infatti non poche teorie. Tra esse è forse il caso di ricordare 1. La teoria della proto-70, P.A. de Lagarde. 2. La teoria della pluralità delle traduzioni, P. Kahle. 3. La teoria delle correzioni ebraiche, E. Bickerman. 4. La teoria delle due fonti testuali, D. Barthelemy. 5. La teoria dei testi locali, F.M. Cross e Scuola di Harvard. Secondo la teoria della proto-70, esisterebbe un'unica versione greca antica, dalla quale si sarebbero diversificate tutte le varie recensioni locali. Secondo la teoria della pluralità delle traduzioni, sarebbero esistite varie traduzioni della Bibbia in lingua greca, delle quali i cristiani avrebbero conservato solo un testo standard. Secondo la teoria delle correzioni ebraiche, oltre ad un testo iniziale intatto, esisterebbero versioni successive in cui gli ebrei avrebbero introdotto correzioni stilistiche e giudaizzanti. Secondo la teoria delle due fonti testuali, esisterebbero due lezioni greche dell'Antico Testamento, una cristiana di Antiochia, abbastanza integra, e l'altra ebraico-palestinese, soggetta a parecchie revisioni giudaizzanti. Secondo la teoria dei testi locali, esisterebbero ben tre famiglie testuali, da una prima famiglia testuale localizzata ad Alessandria. D'Egitto si sarebbero differenziate due altre famiglie localizzate ad Antiochia e a Babilonia. La sostituzione del santo nome con Kyrios, Kyrios, da parte dei traduttori originali ed il mantenimento di Kyrios da parte dei successivi copisti non sembra rispondere ad un'unica logica. Si potrebbe infatti pensare 1. Ad una iniziale riservatezza dovuta al fatto che la versione dei 70 era rivolta agli ebrei residenti fuori della terra di Israele, soprattutto nella colonia di Alessandria d'Egitto, ed essendo scritta in greco, poteva essere letta anche dai pagani. 2. Al discutibile tentativo dei giudei dispersi in Egitto e in Mesopotamia di proporre ai gentili una religione monoteista, cosmopolita ed universale totalmente svincolata dal Dio nazionale degli ebrei, dagli aspetti più sacri e segreti dello yavismo e dai caratteri più radicali, politici e fondamentalisti della tradizione sacerdotale, al fatto che la pronuncia del tetragramma era spesso ignota e pertanto intraducibile in greco, dato che i rabbini tendevano a leggere Yande Adonai tutte le volte che trovavano Yahweh. 5. Al fatto che il nome di Dio diventava incomprensibile, illeggibile ed oscuro se si manteneva il tetragramma ebraico nelle versioni greche? 6. Al fatto che, traslitterando in greco il tetragramma con pipè come fece Teodozione, il nome di Dio perdeva ogni significato logico. 7. Ad un atteggiamento reverenziale verso il santo nome. 8. alla non remota possibilità di equivocare la pronuncia del nome di Dio, Yahweh, con quello del padre degli pagani, Giove. 9. Ad un timore superstizioso derivante dal divieto di nominare il nome di Dio in vano, Esodo 20, 7. 10. Al fatto che spesso la Settanta tradusse il verbo ebraico baechan kab, che vuol dire bestemmiare, con il verbo greco onomaso, che vuol dire nominare, Levitico 24, 16. 11. Al sorprendente fatto che alcune scritture del Vecchio Testamento riguardanti Yahweh vengono applicate nel Nuovo Testamento a Gesù Cristo. Tra setrangina a Gesù Cristo, el setranci, ventisido, trantrangina a Gesù Cristo, trangina a Gesù d'origine a Gesù 15.